55. E a proposito di quelli che non hanno età, è arrivato lui, grande Gigi D'Agostino. Musica maestro. We'll be right back. ci dicono non c'è tempo. Facciamo di tutto per essere sempre in tempo, a poter capire che se passa troppo tempo, anche un solo istante può essere importante, e quindi in quel momento oramai non c'è più tempo. Attention, our conditions green. We start the countdown. Attention, it's T minus 10 seconds. Attention, we start the countdown. 10, 9, 8, 7, 6.

presenta Radio Italian. Non suono un genere musicale, suono una musica che mi fa stare male. Che mi fa stare male. Tutti i giorni naturalmente all'interno di Los 40, lo ringraziamo, poi lo ritroveremo insomma domani alla stessa ora. Andiamo avanti con un altro disco, Kronos.